Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Allora, se io adesso sbadiglio e tu mi sbadigli... No, no, non dire niente perché sarebbe disdicevole. Va bene, ne parliamo fra poco. Benvenuti a Möbius, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, e i titoli adesso e poi incominciamo sbadigliando. Se mi ami, sbadigli. Due ricercatrici italiane hanno scoperto che lo sbadiglio è tanto più contagioso quanto più due persone sono legate da una relazione affettiva forte. Il tempo non esiste e ne parlerà al Festival della Scienza di Roma il fisico teorico Carlo Rovelli, che a Möbius racconta le ragioni di questa illusione. Le piante ci aiutano a respirare, liberano ossigeno e trattengono le micropolveri. Un'ascoltatrice ci ha chiesto quanti Ficus Benjamin servono per purificare l'aria di un appartamento. I cebi dai cornetti, le scimmie sudamericane, tornano a far parlare di sé. Sono in grado di riconoscere le caratteristiche funzionali di uno strumento e scegliere quello più appropriato per ottenere il cibo. Google propone un premio per i giovanissimi ricercatori dai 13 ai 18 anni. I premi in palio sono decisamente interessanti. Eccoci qua, Chiara Albicocco. Eccomi. Tu sei sposata, non puoi, se io sbadiglio tu non puoi sbadigliare subito. Sì, vabbè, lo sbadiglio è vero che è contagioso, ed è vero che è più contagioso se c'è tra di noi un, come dire, un rapporto emotivo, ma non per forza amore. Ecco, non necessariamente sessuato, ecco, diciamo. Ecco, esatto. Quindi questo anche è mamma un po'... e figlia. Esatto, proprio così, anche padre e figlio, piuttosto che moglie e marito, piuttosto che i nonni, eccetera, eccetera. Questo è un po' quello che è uscito da una ricerca di alcuni ricercatori dell'Università di Pisa, adesso li introduciamo, e noi ci facciamo spiegare dalla ricercatrice che ha studiato questo aspetto, appunto, che significato ha questa ricerca, che lì per lì insomma ci può sembrare simpatica, ma in realtà ha delle spiegazioni importanti. È qui con noi Elisabetta Palagi, buonasera. Salve. Buonasera Elisabetta. Ecco, lei è ricercatrice presso il Museo di Storia Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa e associata anche all'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di Roma. È doveroso ricordare che questo articolo che lei ha pubblicato su PLOS ONE è stato fatto a quattro mani insieme a Ivan Norcia. Allora, ci racconti questa bizzarra... Questo particolare, perché che lo sbadiglio sia contagioso lo si sapeva da tempo, però questo, il dato di novità è in che modo è collegato all'affettività degli sbadiglianti. Esatto, è proprio così. Che lo sbadiglio fosse contagioso si sapeva da tempo, addirittura ci sono scritti anche relativi all'epoca dei Greci, quindi il fenomeno non era sfuggito neppure alle loro menti così argute. La dimostrazione scientifica è arrivata solo a metà degli anni Ottanta, quando Robert Provine ha pensato bene di prendere un individuo, una serie di individui, di porli davanti a uno schermo, a un video, e proporre degli sbadiglianti, dei video dove c'erano persone che sbadigliavano, e misurare la frequenza e la probabilità che l'individuo che guardava il video aveva di sbadigliare rispetto a quando ad esempio vedeva un video di controllo dove magari il soggetto ripreso con la telecamera semplicemente sorrideva. Questo ha dato l'avvio a tutto un filone di ricerca nuovo, sia psicologico ma anche evolutivo, perché poi è un comportamento antichissimo, anche i pesci sbadigliano, infatti, anche se questo però è interessante. Il contagio vero e proprio, cioè essere infettati tra virgolette dallo sbadiglio altrui, è un fenomeno molto giovane dal punto di vista evolutivo, perché per ora è stato dimostrato solo nell'uomo, nelle grandi antropomorfe, quindi lo scimpanzé, il bonobo, e in una scimmia del vecchio mondo che è il babuino gelada. Ecco, ma senta Elisabetta, siamo due strani, uno sbadiglia, dopo un po' sbadiglio anch'io. Siamo fratello, esatto, e sorello, marito e moglie, lei, la mia sorella, sbadiglia. Io sbadiglio più vicino allo sbadiglio di lei, e questa e anche è la più differenza. Frequentemente, e più frequentemente, è questo che misurate, non tanto dunque, sì o no. Abbiamo misurato tre parametri in questo studio. Il primo era la probabilità di avere uno sbadiglio in seguito allo sbadiglio di un familiare, di un amico, di un conoscente o di uno estraneo. Quindi in assoluto. Ed è molto più probabile sbadigliare in risposta ad un individuo con cui condividiamo un legame affettivo infettivo particolare. Okay. Chiaro. Poi abbiamo misurato la frequenza degli sbadigli effettuati ed anche in questo caso l'unico, diciamo, parametro che spiegava bene il modello era effettivamente il legame empatico condiviso tra i due, e infine abbiamo misurato anche la latenza alla risposta. Si risponde molto più velocemente quando davanti la faccia sbadigliante appartiene a qualcuno che ci è particolarmente caro. Ecco. Non abbiamo studiato, cioè diciamo che l'analisi fatta è un po' complessa, un po' complicata, perché dentro abbiamo messo tantissime variabili per capire proprio da che cosa dipendesse maggiormente, come ad esempio il sesso, se erano due maschi, se erano due femmine, un maschio e una femmina, come ad esempio la nazionalità, perché abbiamo raccolto dati in tutto il mondo con persone di etnografie diverse, sì. Quindi se ad esempio a rispondersi l'un l'altro erano persone della stessa nazionalità o d'etnia oppure persone di nazionalità diverse. E cosa è venuto fuori? È venuto fuori che la nazionalità non c'entra assolutamente niente, che se due soggetti di nazionalità diverse si vogliono bene o stanno insieme da tanti anni rispondono esattamente come persone della stessa nazionalità avente lo stesso tipo di legame. Beh, questo ci torna. Questo ci torna. Conta è il legame. Sì. Senta, mi viene in mente, Chiara, mi viene in mente una roba tremenda adesso da chiedere. Non so se puoi dirlo. Ma se due, ecco, per il marito e moglie che hanno un pessimo rapporto, se uno sbadiglia e l'altro no, è una misura del rapporto. È una misura del rapporto, perché dunque, non si ama. Allora, il modello funziona perché dentro abbiamo raccolto dati, abbiamo inserito i dati di 109 persone. Qualcosa come 680 possibili diadi. Certo. Accoppiate. Lo sbadiglio, diciamo, e il contagio dello sbadiglio è una cosa estremamente variabile da un soggetto all'altro. Quindi, insomma, siamo attenti, ecco, a non misurare con questo termometro che però, troppo, diciamo, ha un indice e non è regolato in modo perfetto. Non può essere utilizzato come strumento amoroso, no. Ecco, non è che se io sbadiglio e mio marito non mi risponde o viceversa, vuol dire che il matrimonio sta fallendo. Assolutamente no. E forse in conclusione dovremmo specificare, magari a qualche ascoltatore interessa, il motivo perché lo sbadiglio è veramente contagioso. Entrano in gioco diversi sistemi che appartengono al nostro cervello. Il primo, molto probabilmente, anche se ci sono dati un po' discordanti attualmente, ma si aspettano notizie, diciamo, più confortanti, riguardano i neuroni specchio, quei neuroni motori che si trovano in corteccia prefrontale, che elaborano tutti gli stimoli visivi, soprattutto legati alle mani e alla faccia, e che trasmettono poi al sistema limbico, che rappresenta la sfera più profonda del nostro cervello che elabora le emozioni, quell'espressione facciale. Quindi io so che a quell'espressione facciale mi corrisponde uno stato emotivo particolare. Grazie Elisabetta, buon lavoro davvero. Ehi, prego. Arrivederci, ciao. Buon lavoro. E adesso cosa c'è? C'è il quiz, non poteva mancare. Una ascoltatrice, la sentirete fra poco, ci ha chiesto se il Ficus Benjamin migliora la qualità dell'aria nel suo appartamento. Risponderemo fra poco, come vi ho detto. Però voi, cari ascoltatrici e ascoltatori, che cosa ne pensate? Allora, prima possibilità. Sì, ed è solo il Ficus. Ci scriverete sì. Oppure, no, il Ficus è una delle poche piante che non migliora l'aria. E ci scriverete no. Terza e ultima possibilità. Stiamo parlando di apporti del tutto irrisori, nulla sostanzialmente, ci scriverete nulla. Dove ci scriverete? Al solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Mercury 13, la vera storia di 13 donne del sogno di volare nello spazio, scritto da Martha Ackman ed edito dalla Springer Italia. Su questo libro abbiamo fatto un servizio nella scorsa puntata di Mebius e adesso ve lo diamo in omaggio se vincete il quiz. Questo libro è offerto da Librerie Rizzoli. C'è un festival della scienza a Roma quando, è un momento perché vediamo se riusciamo a dirlo, per parlare di questo festival ho qui con me questa sera Carlo Rovelli. Buonasera Rovelli. Buonasera. Ordinario di fisica teorica all'Università di Marsiglia. Il festival è dedicato al tempo e lei terrà una relazione, una conferenza con questo titolo, Il tempo non esiste. E a questo punto io non so, cioè, cosa faccio? Devo dire quand'è? Perché potrebbe essere un'informazione sbagliata. O no? La diciamo? O perlomeno, no. Lei mi spieghi, perché se io dico adesso che, ridiamo appunto giustamente insieme, se io dico adesso che la sua conferenza è domenica questa, che sta arrivando, ma per gli ascoltatori, attenzione, di domenica invece sarà già passata, però se il tempo non esiste, che sarà alle 17 al Teatro Auditorium di Roma, e quindi sarà domani oppure c'è già stata, ma se il tempo non esiste, Rovelli, quando noi diamo delle date, degli orari, che cosa facciamo? Questa è esattamente la domanda a cui cercherò di rispondere, o cerco di rispondere, o ho cercato di rispondere a questa conferenza. Prima di tutto, il fatto che il tempo non esista non significa che la nostra vita cambia, che possiamo fare a meno del tempo e che ahimè invecchiamo e il tempo passa. Eccetera. Per noi il tempo esiste, giusto? Per noi viviamo immersi nel tempo, noi anzi abitiamo il tempo in qualche maniera, il tempo è una cosa profondamente integrata nel nostro essere, nel nostro percorso. Ce l'abbiamo appiccicato addosso, ci viviamo dentro e siamo in qualche maniera, il nostro essere è un camminare su per il tempo. Però questa è la cosa interessante, secondo me è la cosa bella, quella che spesso la scienza ci ha insegnato nel passato e quello che continua a fare è insegnarci che le nostre percezioni, anche quelle più ovvie, più elementari, spesso sono approssimate, sono una visione del mondo che non esaurisce per niente la complessità della realtà, che la semplifica in maniera l'esempio più tipico è la terra ferma sotto i nostri piedi, non c'è nulla di cui siamo più certi come il fatto che la terra non si muove sotto i nostri piedi, e invece si muove perché gira intorno al sole, fa... tra l'altro ad una velocità paurosa. Ha una velocità paurosa dell'ordine di decine di chilometri al secondo, quindi esatto. Ogni secondo la terra sotto i nostri piedi si è mossa di 10 chilometri. Sì, esatto. E adesso ormai questa cosa l'abbiamo imparata e possiamo convivere con quest'idea, nonostante il fatto che contraddica il nostro senso della stabilità della terra a cui ci affidiamo. E non è che perché sappiamo questa cosa qui la terra sotto i nostri piedi è meno stabile, continuiamo ad appoggiarci, continuiamo a costruirci sulle case. Quindi quando anche imparassimo che il tempo non esiste, continueremmo a vivere nel tempo. Però è più forte, converrà, perché comunque abbiamo qualcosa sotto i piedi che invece che essere fermo va molto veloce, ma se lei dice che il tempo non esiste, mi sembra più forte, però magari mi sbaglio come affermazione. Ci sono due passaggi da fare. Il primo è qualcosa che non è né controverso, né dubbio, né incerto, ma è qualcosa che abbiamo imparato ormai da decenni, ed è il fatto che la nostra intuizione del tempo comunque è sbagliata, perché noi pensiamo che ci sia un tempo comune a tutti quanti, invece non è vero. Oggi sappiamo con direi certezza, perché è stato misurato, perché misuriamo, perché fa parte addirittura della tecnologia del GPS che usiamo per andare in automobile, che il tempo passa a velocità diverse per persone diverse o per luoghi diversi o per percorsi diversi. Cioè se io vado a scuola con un coetaneo, aspetto 10 anni e quando lo rincontro, il tempo che è passato per lui e per me possono essere diversi. Sì. Questo effetto è molto piccolo, ma è molto ben misurabile, ed è misurato continuamente. Sì. Però proprio perché è piccolo ci dice che nella nostra intuizione di un tempo comune a tutti quanti c'è qualcosa che non va. Già il tempo è più complicato di così, ognuno ha il suo tempo. Sì. È piccolo perché quando lo misuriamo sulle cose piccole che stanno intorno a noi, e noi pure siamo piccoli, ma lei senz'altro mi dirà che poi quando andiamo per esempio sulle dimensioni dell'universo scopriamo che queste differenze diventano enormi e che per esempio, certo, noi vediamo un cielo stellato che non esiste, no? Perché noi vediamo un cielo stellato che non esiste, che vediamo degli oggetti nel cielo che sono l'immagine che vediamo è antica di migliaia di anni. Quindi il presente dell'universo, del cielo stellato, non c'è. Non c'è, esattamente. Noi vediamo nel passato e pensare il tempo come un'unica corda, un'unica linea che si sviluppa è certamente sbagliato. Il tempo è già molto più complicato di così. Senta, proviamo a vedere se riusciamo rapidamente, ma solo per dare una suggestione, ad affrontare una roba complicatissima. Ci sono quelli che dicono che se il tempo non esiste, allora anche in quelle formule, in quelle equazioni molto semplici che si studiano addirittura ormai, credo, alle scuole medie, che riguardano la velocità, no? Beh, se questo T non esistesse, bisognerebbe poterlo eliminare, perché non c'è da queste equazioni, invece non si riesce a eliminarlo. No, invece si riesce. Ah, si riesce, vede, secondo passaggio. Sono rimasto indietro. Non solo si riesce, ma nel cercare, e adesso qui arriviamo alla fisica di frontiera, quella che stiamo studiando, nel cercare di capire le cose che ancora capiamo poco, in particolare le proprietà quantistiche dello spazio e del tempo, cioè quello che la meccanica quantistica, che è l'altra grande scoperta insieme ad Einstein del Novecento, ci dice sul mondo, noi scriviamo delle equazioni, in queste equazioni il tempo non c'è proprio, sparisce. Abbiamo delle equazioni senza tempo, e questa è la sparizione del tempo di cui quindi parlo. Questa cosa è stata risolta. Sì, è stata risolta. Risolta, queste insomma. Le equazioni che scriviamo senza tempo sono equazioni che speriamo descrivono il mondo, ma ancora non le abbiamo testate, non siamo ancora sicuri. Però sono equazioni che riescono a descrivere il mondo, sì, compreso tutto quello che vediamo intorno a noi, senza usare la variabile T. E come funziona? Non è molto difficile da comprendere. Invece di descrivere come variano tutte le cose nel tempo, queste equazioni descrivono come variano tutte le cose l'una rispetto all'altra. Beh, certo. Ma io posso dire al tempo 1 succede questo, al tempo 2 succede quello, o posso dire quando succede una certa cosa succede un'altra cosa, quando le lancette dell'orologio sono sul 12 il sole è in alto. Certo, una matematica relazionale, diciamo. Esattamente, è una matematica relazionale, e queste teorie su cui io e tanti altri nel mondo, in Europa, in America, altrove stiamo lavorando, sono delle formulazioni della fisica esattamente relazionali, in cui si parla di relazioni fra variabili una con l'altra, invece di parlare di come le variabili evolvono nel tempo. Va bene, chiudo io dicendo che uno dei capisaldi della buona divulgazione è quello di capire che un sacco di cose complesse non si possono spiegare dall'inizio alla fine, ma bisogna dare delle buone suggestioni. Mi sembra che siamo riusciti a dare delle buone suggestioni, poi se volete entrare dentro questo mondo immenso e fantastico, ci sono anche ormai parecchi testi, magari ne parleremo fra breve, dedicati al tempo. Ricordo allora, per quelli che ci ascoltano il sabato, domenica alle ore 17 al Teatro Auditorium di Roma, lei parlerà su questo tema: il tempo non c'è, non esiste. Esattamente. Grazie Rovelli. Grazie infinite. Arrivederci. Prendete nota o tenete a mente moebius@radio24.it per le vostre domande, anche quelle folli. Questa di oggi non lo è, ma è ingannevole, Chiara. Ecco, mandateci i vostri rompicapi anche tramite Facebook, ci trovate in Moebius Scienza. Ed ora però io darei la parola a Mariella D'Ameda, che è una nostra ascoltatrice, che ha un quesito botanico. Vorrei sapere in che termini i Ficus Benjamin purificano l'aria all'interno di un appartamento, nel senso, danno solo ossigeno o anche altri vantaggi? E un'altra domanda, quanti beniamini servono, supponiamo, in 100 metri quadri di appartamento per avere un effettivo miglioramento della qualità dell'aria? E funzionano anche con la luce artificiale? Grazie. Questa settimana siamo andati precisamente all'Orto Botanico dell'Università di Catania per dare la risposta alla nostra Mariella. Qui con noi infatti c'è Pietro Pavone, che è il botanico e il direttore dell'Orto. Buonasera, dottor Pavone. Buonasera. Buonasera. A lei la parola. È chiaro che le piante intanto dentro c'è poca luce, quindi non esprimono il meglio di sé. Già, certo. Quindi è difficile, tranne che un appartamento tutto vetrato, eccetera. Sono delle piante ornamentali, non sono delle piante che sono in grado di purificare l'aria in un appartamento dove notoriamente ci sono più persone che utilizzano l'ossigeno e che emettono anidride carbonica. Le piante anch'esse utilizzano l'ossigeno per la loro respirazione, perché si chiama così, però siccome fanno la fotosintesi emettono più ossigeno all'esterno di quanto anidride carbonica possono emettere. Assorbire. Quindi diciamo che l'ossigeno è positivo rispetto alle quantità di anidride carbonica che loro emettono. Però attenzione, se le piante sono illuminate, la sera, quando non c'è luce, quando c'è poca luce, la pianta consuma, ha il suo metabolismo, quindi consuma ossigeno e non emette, ne emette pochissimo. Quindi non potremmo avere una foresta in casa, seppur... No, è impensabile. Ecco. Queste piante sono, secondo me, servono soltanto per abbellire i nostri spazi, non certo per avere una migliore qualità di aria all'interno dell'appartamento. E quindi, l'appartamento deve essere ventilato, bisogna aprire le finestre e cambiare l'aria la mattina specialmente. E quindi, Pavone, per quanto riguarda la risposta al nostro quiz, era la terza la domanda, parliamo dei contributi irrisori. Tutte le piante fanno ossigeno e non soltanto il ficus beniamina o benjamina, come si vuole, è più corretto dire beniamina, perché è latino, il nome latino è ficus beniamina. Alla J, quindi gli inglesi tendono a chiamarlo Benjamin. Benjamin. Sì, un po' tutti noi. Invece per dire Benemina. Però al di là di questo ci si intende, non è un problema. Per quanto riguarda questa pianta, è una pianta particolare che è del sud-est asiatico, una pianta diciamo un po' tropicale, quindi non molto adatta per essere messa fuori nei climi freddi. E a sud Italia si può mettere anche in piena terra, ma se ci sono gelate la pianta ne soffre. Dentro l'appartamento cresce, a meno che perché bisogna stare attenti a dare per l'acqua, la pianta facilmente viene attaccata da funghi e quindi può andare in stress, quindi mai far ristagnare l'acqua nel vaso. Quindi, mettere sotto vaso è la cosa più deleteria che si possa fare. Quindi nella domanda della nostra ascoltatrice Mariella, in cui appunto le chiedeva in un appartamento di 100 metri quadri quanti dovrei metterne, se la riempie tutto dei ficus, qualcosa lei esce all'aria buona, ma ammesso che ci sia la luce pure, ecco. Ma ammesso che sia scoperchiato questo appartamento, sia un tetto di vetro, quindi diciamo che il tetto di vetro, le piante in genere negli appartamenti vanno sempre a regredire, cioè è mia esperienza vedere che le piante vengono sostituite continuamente o perlomeno si mettono dentro, poi magari si mettono fuori per poterle fuori dove è possibile, dove non è possibile si devono mettere in terra. Sì. Lei poco fa, Pavone, aveva fatto un riferimento all'illuminazione, la nostra ascoltatrice diceva anche... No, la luce normale dell'appartamento non è in grado di far funzionare l'appartamento. No, certo, ma una luce artificiale... La luce artificiale bisogna mettere una batteria di neon, come quella che mettiamo negli acquari. Ah beh, quindi proprio... Tenga presente che negli acquari sono delle piante sciafile, quindi sono delle piante che hanno poche esigenze di luce. Questa invece è una pianta che ha molte esigenze di luce. Però quindi con quelle frequenze lì... Dovrebbe essere tutto pieno di lampade. Quindi verrebbe un appartamento tremendo, scoperchiato con tutti i neon. Ecco, ma ci vuole quella frequenza luminosa del neon, non una lampadina normale. No, anche la lampadina normale potrebbe funzionare, perché la fotosintesi ha uno spettro che è abbastanza ampio. Quindi utilizza la parte del rosso, la parte del violetto, cioè. Però ci sono delle lampade al neon pensate per le piante, tanto è vero quelle d'acquario hanno una temperatura di colore specifica per le piante d'acquario. Ovviamente la quantità di luce è quello, il fattore limitante, che questa pianta richiede sole. Pavone, anche le altre piante però mi sembra più o meno si comportino così, nel senso che non c'è una pianta particolare che noi diciamo vabbè allora metto questa. Se noi mettiamo una felce, per esempio, la felce ha una minore esigenza di luce, quindi può stare benissimo dentro casa. Bene, le questo felce, è interessante. Sì, perché sono da sottobosco, quindi non vivono all'aperto, ma il ficus vive al sole. Ecco. E infine una cosa un po' di attualità, si parla sempre di queste ultime ricerche per cui le piante riuscirebbero ad assorbire in qualche modo il particolato sottile, il famoso PM10, c'è qualcosa di vero? Sì, certo, tanto è vero che è auspicabile che tutte le città abbiano viale alberate, abbiano piante, il verde è fondamentale nelle città. All'aperto però. Le città erano costruite pensando che il verde stava fuori. Sì. Quindi le città storiche, le città medievali, le città seicentesche, settecentesche avevano il verde fuori. Sì. Oggi ci si rende conto che il verde dobbiamo portarlo dentro, perché fuori si sta riducendo drasticamente. Sì, e anche l'altro errore che veniva fatto nella progettazione delle città, per esempio New York è così, si decideva di mettere un grande parco al centro lasciando lì invece spoglio tutto il resto. Invece deve essere distribuito. No, deve essere diffuso. Sì, però assorbe il particolato sottile, quindi questa è un'indicazione. Sì, specie le piante che hanno le foglie che cadono, perché le piante caducifoglie sono più adatte per questo, perché magari assorbono dopodiché si liberano delle foglie, la pianta ha un, in primavera poi ha il suo vigore naturale, normale. Ah, si liberano della parte velenosa, si bene, liberano è vero. Di tutte le scorie, quando le foglie cadono, cadono perché debbono liberarsi tutte le scorie, la pianta prima di far cadere le foglie rimette lì, manda tutto quello che non serve. Va bene, grazie professor Pavone. Grazie professor Pavone, buon lavoro, arrivederci. Grazie, arrivederla. Sono al telefono adesso con Simona Panseri. Buonasera Panseri. Buonasera. Direttore comunicazione di Google Italia. Sa Simona perché sono particolarmente contento di averla qui? Perché la scorsa puntata abbiamo già annunciato la disponibilità di una buona quantità, credo, se non ricordo male, 200 borse di studio per giovani ricercatori e ricercatrici. Adesso con voi Google abbiamo qualcosa di analogo, perché sono sempre cifre abbastanza interessanti che possono arrivare in questo caso a giovanissimi ricercatori e ricercatrici che partecipano a una vostra proposta. Vediamo di che si tratta. Sì, certamente, si tratta di Google Science Fair, così viene chiamato questo progetto, questa competizione, che riguarda più che giovani ricercatrici e ricercatori, direi giovani appassionati, o che sì, certo, appassionati certo. di scienza. Sì. E questo è proprio lo spirito del progetto, avvicinare gli studenti dai 13 ai 18 anni di tutto il mondo alla conoscenza scientifica, sì. con un concorso che prevede che gli studenti si pongano una domanda, quindi partendo da una curiosità intellettuale su un tema qualsiasi che loro ritengono rilevante, formulino un'ipotesi e facciano qualche piccolo esperimento per andare nella direzione di trovare una risposta a questa loro domanda e ci propongano il progetto. Ok, quindi in pratica non è che devono svolgere una ricerca, però si interrogano su un qualcosa di particolarmente interessante per loro e provano a vedere come secondo loro si potrebbe fare qualcosa per trovare delle risposte, avere delle, no? Provano a mettere in moto, come dire, una fase che è pre-esperimento, insomma, questa è la cosa. Indubbiamente, cominciano a mettere in moto un atteggiamento di ricerca, di tipo scientifico verso la ricerca. Senta Simona, allora 13-18 è diviso il concorso per fasce d'età in quest'area oppure chiunque? Sì, in realtà poi nella valutazione ci sono delle fasce d'età 13-14, 15-16, 17-18. Sì. La cosa significativa è che da quest'anno si potranno presentare i progetti anche in italiano. Scritti in italiano, certo. Importante. Sì. E i premi, i finalisti verranno selezionati per varie regioni, quindi 30 finalisti per l'Europa, 30 per le Americhe, 30 per l'Asia. Dopodiché i premi finali prevedono la selezione ovviamente di alcuni finalisti veramente finali che avranno la possibilità di vincere una borsa di studio di $50,000. Che sono decisamente non poco. Per partecipare cosa bisogna fare? Bisogna visitare il sito www.google.it/sciencefair, compilare online la presentazione del proprio progetto e soprattutto direi prima cominciare a guardare il mondo con un po' di curiosità certo, provare a rispondere. Certo, però vediamo bene gli aspetti burocratici, diciamo così. Allora www.google.it, vabbè, lo conoscono tutti. Poi slash bisogna digitare science. Sì, ma Science Fair, adesso poi lo metteremo anche sul nostro sito, ma diciamolo bene in onda, Science è science, scritto in inglese, Fair cosa intende? Come fiera, fire. Ah, fair, ok, perfetto, science fair, Science Fair, benissimo, e entro quando? I progetti devono essere presentati entro il 1° di aprile. Beh, e i finalisti verranno poi annunciati nel mese di maggio. C'è abbastanza tempo. Concorrono dei single, non è una roba per scuole, o è il singolo che... Concorre singoli oppure in gruppi di massimo 3 studenti. Ah, ci può essere anche un gruppo di 3 studenti. Si può scrivere in italiano, ho fatto bene a specificare questo perché in una precedente edizione, quella dell'anno scorso, era solo in inglese, quindi questo ha ristretto la partecipazione di molti paesi, invece adesso è multilingue. Indubbiamente, ci tenevamo che fosse possibile presentarlo anche in italiano, vogliamo che gli studenti italiani abbiano pari opportunità di dimostrare il loro valore. Va bene, Simona Panseri, grazie, noi metteremo anche questa cosa sul sito della nostra trasmissione www.moebiusonline.eu e speriamo che partecipino in tanti e poi dopo ovviamente dobbiamo sentirci se qualche italiano o italiana è entrata nella finale. Volentieri, sarà un vero piacere. Ci avviserà lei. Grazie, a presto. Sentite adesso che cosa vi racconta Chiara Albicocco. Non c'è che da augurarsi che la scoperta sia confermata in tutta la sua potenzialità. Per il momento i dati iniziali sono davvero confortanti e ci parlano di funghi che si mangiano il petrolio. Si sta parlando di funghi microscopici. Al momento sono stati portati a termine degli esperimenti in laboratorio con dei contenitori pieni di petrolio e delle colture di funghi depositate su di esso. Nell'arco di un paio di settimane i funghi si sono abbondantemente moltiplicati e il petrolio? Scomparso. Da tempo si sa, e ci sono applicazioni già esistenti, che certe coltivazioni sono in grado di estrarre dal suolo delle sostanze inquinanti. Lo fanno lentamente, ma lo fanno. E quindi sono validi strumenti di decontaminazione. Ma niente era disponibile per il petrolio. E soprattutto così efficiente. La ricerca è stata condotta da un gruppo di ricercatori dell'Università di Montreal, in Canada. E il dato importante di questa ricerca è che i tempi di decontaminazione sembrano essere particolarmente veloci. Un primo esperimento reale, sul campo è proprio il caso di dire, è già stato fatto su un terreno che stava all'interno di una raffineria. Sono stati piazzati funghi, dopo 3 settimane l'area è risultata priva di petrolio. Sul suolo si è formata una specie di cenere nera composta da miliardi di microfunghi. Una cenere molto facile da asportare, recuperando così perfettamente il terreno. Adesso vi faccio ascoltare una cosa strana. Tanti musicisti da tanto tempo stanno cercando dei nuovi strumenti, non è affatto una cosa facile, dei nuovi strumenti che abbiano una fascinazione identica a quelli che conosciamo da tanto tempo e che certo ci danno della musica meravigliosa, però appunto molti si interrogano, ci potranno essere delle nuove sonorità? Oh beh, adesso io non voglio certo proporvi qualcosa che è in grado di sostituire grandi sonorità ben consolidate, però insomma è un certo signore, Xip Shire, un musicista americano, sta facendo delle ricerche con degli strumenti nei quali riesce a utilizzare all'80% soltanto il fiato, quindi solo del rumore, del suono che nasce dal fiato, e poi ci sono anche un po' di inserimenti di voci. Incominciamo a sentirlo. Qui lui soffia in una specie di flauto con dei sensori. Qui c'è un po' di voce. Qui attenzione, perché lui mette giù il flauto, si infila il sensore in bocca e si avvicina a quella che credo presumibilmente sia la sua fidanzata e si baciano tenendo il sensore in bocca e provano a generare suoni. Da un bacio. Ecco. Questo era Xip Shiri, probabilmente con la sua fidanzata, che chiude questa sua esibizione. No, beh, certo, non me la propongo come una strumentazione rivoluzionaria, però insomma c'è una ricerca interessante. Strumenti a fiato nel senso letterale del termine. Tu lo sai come finirà questa storia, no? Che fra qualche anno avremo gli esperimenti su come usano il telecomando. Oppure gli smartphone. Oppure gli smartphone. Ma sempre loro. Ma sempre loro. Perché noi li abbiamo raccontati in tutte le salse. Ma perché sono bravi, fanno perché un sacco di cose, bravi. Sono abili negli affari, sanno gestire, come avevamo detto, non la prostituzione, ma quasi. Insomma, sono i cebi dei cornetti. Non riusciamo ormai a staccarci. Ormai i nostri ascoltatori si sono affezionati, quindi ogni volta che cronaca scientifica parla di loro, anche noi ne parliamo. E oggi è così. Ecco, magari introduco soltanto, ma tanto lo so già che lo sapete, i cebi dei cornetti sono delle scimmie sudamericane, delle piccole scimmiette sudamericane distanziati dall'uomo di circa 35 milioni di anni, quindi non è che siano proprio nostri parenti strettissimi. No. Ecco, allora ne parliamo con la ricercatrice che li ha studiati questa volta, si chiama Gloria Sabatini. Buonasera Gloria. Salve a tutti, buonasera. Buonasera Gloria. Ecco, rimaniamo già in apertura di trasmissione, lo abbiamo citato, nell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di Roma, in collaborazione con la dottoressa Elisabetta Visalberghi, che anche lei è molto nota qui a Mebius. Ecco, allora Gloria, veniamo al punto, che cosa gli avete fatto fare questa volta e che cosa avete scoperto di loro? Allora, siamo partiti dal fatto che sono abilissimi utilizzatori di strumenti, anche in natura, e quindi questa volta abbiamo voluto studiare una proprietà funzionale degli strumenti finora non studiata in questa specie, che è quella della rigidità o flessibilità. Quindi una proprietà del materiale che non è direttamente percepibile a vista, ma soltanto attraverso il contatto diretto o indiretto con lo strumento. Aspetti, spieghi un po' bene, cioè gli avete messo in mano, perché intanto hanno le mani, del materiale che si flette, che si può modificare. Esatto. Uno e uno, diciamo, uno rigido e uno flessibile. Ah, ho capito, va bene. Di strumenti. In alcuni casi si trattava di strumenti rigidi, in altri di strumenti flessibili. E questo, diciamo, queste informazioni gli erano utili per risolvere due tipi di compiti che gli abbiamo posto. Nel primo esperimento praticamente dovevano riuscire a raggiungere una ricompensa, in particolare un pezzo di banana, che era posta al di fuori della loro portata. E diciamo, per spostare questo pezzo di banana e per avvicinarselo, dovevano scegliere di utilizzare lo strumento rigido, perché altrimenti quello flessibile, entrando in contatto con la banana, si fletteva e non era in grado di spostarla. Quindi niente banana. Ed è il risultato, insomma, che sapevano sceglierlo. Esatto, sì, e lo sapevano scegliere avendo a disposizione informazioni sia dirette che indirette, in quanto in una prima condizione, per esempio, noi gli facevamo toccare direttamente questi strumenti nuovi per loro, che non avevano utilizzato già precedentemente, per appunto sondare, cioè per farglieli toccare e manipolare liberamente. Poi, posti di fronte al problema, dovevano scegliere quello rigido, e qui hanno scelto significativamente di più gli strumenti rigidi rispetto a quelli flessibili. E una seconda condizione più complicata, le informazioni erano soltanto indirette, cioè vedevano lo sperimentatore manipolare gli strumenti senza poterli toccare direttamente. Vi osservavano. Dovevano dedurre le informazioni in maniera indiretta. E anche lì si sono dimostrati in grado di scegliere quelli rigidi rispetto a quelli flessibili. Hai visto. Per avere, la prova del 9 l'abbiamo fatta con una terza condizione in cui non avevano nessun tipo di informazione, perché c'è anche venuto il dubbio. Magari sono in qualche modo in grado di riconoscere a occhio gli strumenti rigidi rispetto a quelli flessibili, utilizzando informazioni che... Sì, d'altro genere. E allora cattivoni cosa avete fatto? Che cattivoni, alla fine purtroppo non avendo nessuna informazione diretta, ma soltanto vedendo tre oggetti disposti di fronte a loro che nessuno toccava o non potendoli toccare, lì non sono stati in grado di ottenere informazioni sufficienti, quindi sono andati completamente a caso. Ah. E lì? E a quel punto, abbiamo ulteriormente complicato la faccenda. Ribaltando il problema, nel senso gli abbiamo posto un tipo di problema per cui in realtà la soluzione a quel punto doveva essere la scelta di uno strumento flessibile. Il problema era un tubo di plexiglass trasparente piegato con un angolo di 90 gradi sul fondo del quale c'era dello yogurt. Però loro sono ghiotti lo yogurt, di yogurt, solo quello flessibile. Ah, ok. E anche qui, questa volta appunto utilizzando sempre strumenti nuovi che non avevano utilizzato già precedentemente, sono stati in grado di scegliere significativamente di più quelli flessibili. Subito. Quindi il primo risultato insomma è che comunque sono in grado di comprendere la relazione esistente fra la proprietà dello strumento, in questo caso rigidità e flessibilità, e il problema da risolvere in maniera flessibile, cioè se ribalto il problema loro sono in grado di cambiare la strategia. Ecco, questo è proprio una caratteristica che hanno, di capire la funzionalità degli strumenti che anche noi umani abbiamo fin da tenera età, ma non da subito. Voi l'avete riscontrato anche nei cuccioli umani, quindi nei bambini che imparano appunto ad utilizzare lo strumento giusto circa a 2 anni, quindi sia per i cebi che per gli umani si impara con l'esperienza, mi pare di capire. Esatto, sì, nei bambini sono stati fatti diversi tipi di esperimenti, diciamo non esattamente gli stessi fatti con i cebi, ma che ci fanno insomma comprendere che si tratta di una capacità che si sviluppa anche con l'esperienza e lo sviluppo anche del sistema nervoso. E, per esempio, i bambini di 18 mesi sono in grado di riconoscere le caratteristiche funzionali di alcuni strumenti per recuperare per esempio un giocattolo posto al di fuori della loro portata, oppure bambini anche più piccoli di 16 mesi diciamo posti di fronte dovendo attraversare una passerella sospesa utilizzano come corrimano, cioè sono, diciamo, si fanno più coraggio per attraversare la passerella se il corrimano è rigido piuttosto che se è flessibile. Ah, bene, quindi certo. Anche nei bambini in qualche modo c'è un mix fra sviluppo delle capacità del sistema nervoso ed esperienza che porta al maturare di questa capacità insomma di riconoscere le proprietà funzionali. Le volevo chiedere questo però, nel momento in cui gli presentate la scelta fra strumenti, ecco, loro quanto tempo ci mettono? C'è una roba abbastanza rapida oppure deve passare qualche ora, qualche giorno? Non ho idea. La scelta nel nostro caso era immediata. Loro potevano manipolare gli strumenti senza ancora che gli presentassimo il problema. Noi poi li recuperavamo immediatamente dopo, gli ponevamo la scelta fra i 3 che avevano appena manipolato o che avevano visto manipolare, e la scelta era immediata, quindi diciamo questa comprensione è praticamente immediata. E c'è questo è sorprendente. C'è qualche spiegazione dal punto di vista evolutivo, non so, che può mettere in relazione questa capacità che in realtà però non è innata nei cebi con poi noi? Beh, diciamo che ci sono due, ovviamente il riconoscere le proprietà funzionali può essere vantaggioso per due ordini di motivi, nel senso che ti permette di operare in maniera più efficace e veloce sulle cose stesse per modificarle, oppure magari per quanto riguarda i cebi, ma anche forse nell'evoluzione umana, per avere accesso a fonti di cibo altrimenti non raggiungibili. Oppure in parallelo l'altra capacità, quella per esempio di riconoscere le proprietà degli strumenti senza manipolarle direttamente, ma vedendo qualcun altro che ne manipola, può anche essere utile perché fa risparmiare tempo, piuttosto che mettermi io a provare tante volte a fare una cosa, vedendolo fare a qualcun altro e capendo qual è la cosa dell'oggetto che la rende utile per risolvere un problema, posso agire direttamente senza dover fare esperienza diretta io stessa, insomma. Certo. Senta Gloria, lei sa come si aprono le portiere d'automobili? Ci vuole uno strumento piegato, un fil di ferro? No, ci vuole uno strumento rigido. No, si piega prima in fili. No, nel senso che se vi mancasse un'automobile andate a vedere se c'è qualche cebo mancante nello stabulario, perché d'altronde prima o poi guideranno questi. Beh, gliele state facendo fare di tutti i colori, Sabatini. Beh, che divertente, ma diciamo che loro partecipano volentieri, anzi si divertono pure, almeno loro quella è l'impressione, come dire, antropomorfica. Dunque, intanto di quanto sono grandi? All'incirca sono piccolotti. Ma dimensioni di un gatto. Dimensioni di un gatto. È abbastanza piccoli. E quanti ne avete? Una 30. Ui, però, accidenti, tanti. A Roma, A Roma. Ah, un'altra cosa che non ho detto, ma che è importante, questa ricerca è stata condotta in collaborazione col Max Planck Institute di Lipsia, perché in quanto questi esperimenti erano stati anche fatti con le scimmie antropomorfe, scimpanzé e gorille, eccetera. Quindi studi comparativi anche, esatto, su questo. Studi comparativi, sì. Va bene, grazie. Grazie Sabatini. Arrivederci. Ci sentiamo presto. Buon lavoro. Arrivederci. Siamo in chiusura, Chiara. Non so cosa dovremo ancora dire dei cebi. Mi aspetto cose strepitose. Potrebbe succedere qualsiasi cosa, perché veramente ci hanno sempre stupito. Tanto, lo so. Nel 2012 senz'altro. Ne riparleremo. Ne riparleremo senz'altro. Noi invece ci sentiamo fra 7 giorni. Buona settimana a tutti. Buona serata.